Storiacce di Raffaella Calandra. Ci ho provato, mi dispiace, io... Me la caverò. Il dottor Weber mi ha passato dei campioni omaggio, per un po' sono a posto. Bene, bene. Io ho una buona assicurazione sanitaria. Infierisce su uno già a terra? Intendevo dire che ti sposo. È un'offerta molto generosa. Ma non posso. Sono un medico. Ho fatto un giuramento e non posso lasciarti così ora, come non potrei lasciarti ferito a morte in mezzo alla strada. Questo è assurdo. Te ne rendi conto? È assurdo tutto questo. È assurdo che si arrivi a concepire l'idea di un matrimonio per estendere la propria assicurazione sanitaria al coniuge e permettergli di curarsi. Ma anche questa è l'America, non solo quella della serie, della popolare serie Grey's Anatomy, che avete forse riconosciuto, quella della drammatica quotidianità di migliaia di persone che avevano visto una speranza nell'Obamacare, poi affossato da Donald Trump. Ma se gli Stati Uniti in tema di sanità sono forse il massimo esempio di diseguaglianze, le migliori cure per alcuni e migliaia di persone esclusi anche dalla più semplice assistenza sanitaria, la salute, ahimè, può essere diseguale anche da noi. Liste d'attesa lunghe nelle strutture pubbliche, costi di ticket e poi differenti standard regionali che alimentano un vero e proprio turismo sanitario da una parte all'altra del paese. Tanto maggiore quanto più grave la patologia. E anche se il servizio sanitario italiano resta, diciamolo, tra quelli modello, i problemi non mancano anche nelle realtà considerate un esempio per gli altri. E da qui parte questa puntata di Storiacce dal Festival dell'Economia di Trento nella salute diseguale. Le differenze di reddito, i fattori ambientali e le relazioni sociali determinano aspettative di vita diverse. Il divario può superare i 5 anni e i margini di questa salute disuguale, il tema portante del Festival dell'Economia di Trento, sono destinati ad allargarsi per effetto della crisi. Negli ultimi 8 anni la quota di persone che per motivi di costi ha rinunciato ad una visita specialistica è salita dal 4 al 6,5%. Nella cartina geografica le differenze seguono punti cardinali ben precisi. Mario Braga dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Abbiamo un Nord Italia che ha tranquillamente la capacità di confrontarsi con i paesi del Nord Europa in termini di mortalità, in termini di successi di sopravvivenza, per esempio in oncologia, mentre il Sud arranca e si trova molto spesso più a confrontarsi con i paesi fanalino di coda dell'Europa. Questo dunque il quadro emerso dal Festival dell'Economia 2017 a Trento, come lo racconta il nostro Andrea Ferro, a cui do il benvenuto qui negli studi di Radio 24 a Trento. Ne parliamo con l'avvocato Francesca Pesce, a cui do il benvenuto, e poi ci stanno per raggiungere l'assessore alla sanità della provincia autonoma di Trento, Luca Zeni, il direttore dell'Adige, Pierangelo Giovannetti, e il presidente dell'Istituto Superiore della Sanità, Walter Ricciardi. Allora Andrea, cominciamo da te. Uno dei dati più significativi è quello proprio relativo alle aspettative di vita di cui parlavi poco fa. Secondo questo studio, chi abita in un quartiere, diciamo così, benestante di una città, ha, rispetto a chi abita sempre all'interno di questa città, ma in un quartiere popolare, ha un'aspettativa di vita superiore di 5 anni abbondanti. Questo chiama in causa anche un cambiamento delle nostre società e delle nostre città, che diventano sempre più anche multietniche. Avvocato, allora, cambia la società e aumenta anche la difficoltà di accedere alle cure, dunque, giusto? Certo, soprattutto se si parla appunto del fenomeno immigrazione, che è un fenomeno appunto molto complesso, con drammatiche implicazioni umane, sociali, culturali ed economiche, e ovviamente anche sanitarie. Gli stranieri comunque incontrano molte più difficoltà ovviamente ad accedere al sistema sanitario, e questo purtroppo è dovuto a barriere legislative. Pertanto c'è un esercito di invisibili. In realtà le leggi garantiscono l'accesso sia a gli stranieri irregolari ovviamente, ma anche a quelli irregolari. Purtroppo però dal 2009 c'è stata l'introduzione appunto del reato di fatto clandestinità, certo. Quindi la criminalizzazione di uno status soggettivo personale dell'individuo, per cui chi non è a norma, diciamo, non va negli ospedali a farsi non curare. Va a cercare aiuto, e questo non è, cioè è grave certamente per quella componente di persone che stanno nel nostro territorio, comporta anche il rischio potenziale del proliferare magari di fenomeni negativi a cui il sistema sanitario non è pronto, proprio perché sono persone sconosciute al sistema sanitario. Allora, assessore Zeni, in Trentino la salute può essere diseguale tra chi vive in città e chi vive però ad esempio nei paesi in montagna. Riusciranno a sopravvivere i piccoli presidi o ospedali, o si va verso un accorpamento? L'importante per noi è riuscire a garantire i servizi nella stessa misura in termini di equità, ma anche facendo capire alla popolazione che ci sono alcuni servizi che è corretto per tutti che siano concentrati. Oggi nessuno di noi si farebbe operare di una patologia tumorale o al cuore e in un piccolo ospedale, perché la casistica in sanità equivale a qualità. Noi abbiamo evidenziato che in aree molto periferiche, dove ci sono aree montane con difficoltà anche di spostamento in alcuni momenti dell'anno, è importante avere un presidio. Quindi noi puntiamo a mantenere questi presidi laddove è giustificato davvero da elementi geografici e orografici molto molto difficili. La difficoltà che oggi riscontriamo, come in tutte le altre regioni d'Italia, è garantire standard di personale molto elevato, perché oggi in Italia uno dei problemi è che mancano medici, soprattutto su alcune specialità. E quindi a questo punto si deve fare una sorta di bando interno, cioè un incentivo anche economico? No, è stato, sono stati fatti qui in Trentino, perché per esempio hanno offerto l'abbonamento agli ski lift, dico bene, agli impianti di risalita, hanno offerto la possibilità noi abbiamo offerto ai medici di Trento e Rovereto 700 euro a turno per ruotare e fare alcuni turni, però abbiamo avuto un rifiuto unanime. Deve essere il medico a decidere di quanto tempo tu necessiti per fare una visita. Nel momento in cui il medico stabilisce che non c'è una priorità, noi quando viene assegnato la priorità, nel 97% dei casi rispettiamo il termine di 3 giorni, 10 giorni o 30 giorni, anche per l'oculistica. Quando il medico non lo ritiene, c'è un sistema di prenotazione che è su base provinciale. Siccome il sistema è provinciale, me lo assegnano magari su un ospedale distante. Certo, c'è la scomodità di doversi spostare se voglio prima la visita. Sono troppe, quindi c'è troppa un'indicazione a farne. C'è anche un problema che ci sono persone, conosco anch'io, che sono anche fin troppo previdenti nella prevenzione, cioè ipocondria, che hanno bisogno di avere l'esame ogni 3 mesi, ogni 6 mesi, l'ecografia per essere sicuro. Allora io credo che sia giusto che per queste persone, se il medico non ritiene che ci sia un'urgenza, la paghino privatamente. Ma vorrei col direttore Giovannetti commentare dei dati sulla sanità che pongono sia il Trentino che l'Alto Adige tra le aree con le cifre più alte di spesa pro capite. Uno studio della Sant'Anna di Pisa pone Bolzano... Ma di spesa per la sanità o di spesa pubblica? Di spesa pubblica per la sanità. Sono 2200 euro pro capite a Bolzano. Il Trentino poco al di sotto, anche tanto appunto con 2200, ben lontani dai 1800 del Veneto, che comunque è una regione con degli standard sanitari elevati. L'orografia conta anche nella suddivisione delle risorse anche per ospedali che coprono il territorio, e poi probabilmente anche perché vengono pagati meglio i medici, e quindi questo comporta una qualità anche nella selezione, perché chiaramente se il medico è pagato meglio vengono invogliati i migliori a prendere e lavorare in questo tempo. Poi un'altra cosa, un altro aspetto, gli ospedali hanno una qualità di struttura, di strumentazione che è data da una spesa superiore. Allora, cambiamo argomento, andiamo sul tema che nelle ultime settimane ormai è tra i più sentiti, dibattuti, che è quello dei vaccini. Sentite queste voci. Non è un no ai vaccini, è solo una libertà di scelta vaccinale. Dice, questa è un'imposizione, quindi? Noi la vediamo come un'imposizione, come una legge anticostituzionale. E da qui ripartiamo nella seconda parte di Storiacce, nella salute diseguale. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presento Storiacce. Non ci sono informazioni giuste, veritiere, le cose non vengono dette esattamente come sono, non siamo informati, non siamo liberi di scegliere. Perché se si fosse liberi di scegliere, non è che non si fanno a priori, però devo scegliere a quale vaccino voglio sottoporre la mia bambina, quale secondo me ne ha bisogno, avere dei test pre-vaccinali che mi dicano come sta la mia bambina e post-vaccinali per vedere se veramente ha sviluppato questi anticorpi o meno. Scusa, perché no ai vaccini? Nessuno dice no ai vaccini. Noi parliamo di una vaccinazione informata, cioè dove venga... Non vi fidate in sostanza? Ma in sostanza non è che non ci fidiamo, in sostanza i fatti sono chiari, perché abbiamo i vaccini che sono dei farmaci ma non vengono controllati come farmaci. Vengono somministrati senza spiegare cosa sono, senza fare una... I vaccini sono dei farmaci ma non vengono controllati come dei farmaci. Queste alcune delle testimonianze raccolte dal nostro Andrea Ferro, che ringrazio, alle manifestazioni Novax contro i vaccini che si sono tenute anche qui a Trento, un po' sparse in tutta Italia. Eppure fa specie vedere come a Bolzano ci sia il record negativo dei vaccini. Presidente Ricciardi. Allora, noi abbiamo naturalmente il dovere di informare adeguatamente, però anche questi genitori, per questi due hanno detto due corbellerie eclatanti, hanno bisogno di informarsi. Certamente noi dobbiamo recuperare questa fiducia, però quando le affermazioni sono queste, cioè sono così destituite da ogni fondamento, i vaccini sono dei farmaci e non vengono controllati come gli altri, vengono controllati molto molto molto molto molto di più. Normalmente un vaccino viene controllato 120 volte dal momento in cui, e lo facciamo noi come Istituto Superiore di Sanità, proprio per evitare qualsiasi problema, ovviamente a soggetti sani. Bisogna fare i test prevaccinali, non esistono questi test, non esistono in letteratura, non esistono in scienza, esistono decenni di studi in cui si dimostra che quando un bambino di 2-3 mesi, perché lì cominciano, diciamo, le vaccinazioni, è sano, cioè all'anamnesi ovviamente il medico deve parlare con la mamma e verificare che sia sano, che non abbia avuto febbre, che non abbia avuto allergie, che non abbia avuto arrossamenti, gli può fare tranquillamente le vaccinazioni che sono previste, perché gli studi che sono stati fatti sono stati, non esistono che dovremmo fare analisi inutili o invasive, dovremmo prendere, lei ha presente fare un prelievo a un bambino di 3 mesi, che cosa significa? Significa fargli un'iniezione con un ago piccolissimo, metterglielo nel piede, perché molto spesso, diciamo, il braccino del bambino, cioè preferirebbero che noi facessimo questi test che non esistono. Ecco, allora, quando i genitori dicono queste cose, lo dicono perché sono animati sicuramente da buoni propositi protettivi nei propri figli, però da chi hanno avuto queste notizie è un problema. Perché se non si fidano delle istituzioni, cosa che onestamente soltanto una minoranza hanno a fare. Professor Ricciardi, lei ha avuto anche delle minacce, vero? Per tutta la sua ovviamente giusta e forte campagna pro vaccinazione. Sì, sono minacce che arrivano appunto dai social network, ma le abbiamo avute io, il ministro Lorenzin, il professor Burioni, insomma, credo che faccia parte di questa sottocultura che pensa che noi in qualche modo siamo tutti corrotti. Pagati da Big Pharma. Pagati dalle case farmaceutiche, leggevo alcuni cartelli, da 4 a 12 vaccini quanto vi hanno pagato? Insomma, ecco, è chiaro che questo tipo di approccio è un approccio. Per questo io sono un forte sostenitore della maggior trasparenza possibile, cioè noi dobbiamo riconquistare la fiducia dei cittadini, anche di questi che sono così esasperati da credere che qualsiasi cosa noi facciamo sia nell'interesse di qualcuno, è nell'interesse di tutti e soprattutto delle persone più vulnerabili. Ecco, professore, ma secondo lei, ecco, che cosa è successo in Italia? Anche, cioè, vi siete dati una spiegazione del perché ci sia stata a un certo punto questa inversione di tendenza? tendenza per cui si è cominciato a propagarsi questa volontà di non vaccinare più e questa paura nei confronti delle vaccinazioni? Ma guardi, i vaccini sono un po' vittima del loro successo, perché quando i bambini morivano in classe, le mamme non è che si ponevano tanti dubbi, vedevano il compagno della bambina che aveva la poliomielite, che se sopravviveva, sopravviveva paralitico o in un polmone d'acciaio, vedeva il bambino, come era successo nella mia generazione, non si poneva tanti problemi, perché molto spesso è la paura e l'allarme sociale che determina il comportamento. Che cosa è successo? Che i vaccini hanno limitato al massimo, ormai questi casi non si vedono più, e allora i genitori pensano che queste malattie siano risolte. Dice, ma perché se l'Europa, l'Italia è libera dalla poliomielite, devo continuare a vaccinare mio figlio? Allora bisogna spiegare che è necessario. Io questo allarme l'ho lanciato 3 anni fa, il commissario europeo 3 giorni fa. L'Europa può ritornare vittima della poliomielite, lo è già ritornata della difterite, e questo è il primo motivo. In Italia un po' più, perché le donne italiane partoriscono un po' più tardi rispetto alle altre e sono anche un po' meglio educate, quindi si pongono più dubbi e veramente sono animate da buoni propositi, perché se una donna partorisce a 30 anni e l'unico figlio, ha paura che a quel proprio figlio succeda qualche cosa, non vedendo le malattie, perché le malattie vede che cosa? I possibili effetti collaterali, che sono rarissimi, ma da qualcuno vengono esasperati, cioè viene animata questa cultura della paura, e incroci queste due cose e determina che in partenza il 30% delle mamme ha paura di vaccinare i propri, il 70% non ha problemi, il 30% ce l'ha, fortunatamente quando va dai medici, dai pediatri, si riduce questo 30% al 10%, però il 10% non è abbastanza. È un po' come per l'AIDS, si è abbassato la percezione del rischio e quindi in qualche modo si pensa che non sia più un problema così serio. Perfettamente, infatti sta tornando, nel senso che oggi abbiamo dei dati di ritorno delle malattie a trasmissione sessuale, incluso l'HIV/AIDS nei giovani, che sta tornando, perché si pensa che sia una malattia, non è più mortale, ma insomma tu ti devi prendere pillole per tutta la vita, fortunatamente le cure migliorano. Allora noi istituzioni dobbiamo spiegarle queste cose. Prima abbiamo lanciato l'allarme, poi adesso purtroppo abbiamo un'epidemia di morbillo in cui gli americani e gli israeliani dicono non andate in Italia a meno che non siate vaccinati. Abbiamo avuto 3.000 casi a tutt'oggi, quando l'anno scorso in tutti e 53 paesi, solo in Italia, in tutti e 53 paesi, cioè 28 dell'Unione Europea, più le ex repubbliche dell'Unione Sovietica, più Turchia e Israele, l'anno scorso in tutti questi ne avevano 5.000. Quest'anno 3.000 solo in Italia. Allora a questo punto era necessario fare qualcosa. L'Italia torna ad essere un paese dove si può rischiare di morire di morbillo? Assolutamente sì, anzi siamo stati miracolati che non abbiamo avuto, perché in Romania hanno avuto 4.000 casi e 17 morti. Noi 3.000 casi, abbiamo avuto 2 bambini che hanno rischiato la vita, però i nostri sistemi sanitari, i nostri medici, le nostre terapie intensive pediatriche sono state tali da salvargli la vita. In Romania non hanno sistemi analoghi, ne hanno visti morire 17. Noi fino a questo momento siamo stati bravi a evitare. E anche perché, appunto, anche se ci sono le distinzioni territoriali, come da un punto di vista politico, le malattie, ahimè, hanno invece una diffusione che non sta a guardare i confini. Allora, nel ringraziare i nostri ospiti, Storiaccio in genere si conclude con una parte che, si estranea dalla attualità e va indietro nel tempo fino alla stagione del mondo classico, perché abbiamo la rubrica delle nostre mitiche storiacce con una voce di un professore proprio di Trento, professore di letteratura greca all'Università di Trento, Giorgio Ieranotti. Mitiche storiacce. La scienza medica, come si sa, nasce in Grecia con il grande Ippocrate 2500 anni fa, e già allora, nell'Atene del tempo di Pericle, c'erano medici pubblici, di base diremmo noi oggi, che venivano addirittura eletti direttamente dal popolo. Lo stesso figlio di Ippocrate, Tessalo, fu medico dell'esercito, curò i soldati ateniesi sui fronti di guerra più duri, ma, come gli aveva imposto il padre, non si fece mai pagare. Sappiamo però che anche gli antichi pagavano il ticket. Nell'Egitto greco, quando regnava la dinastia dei Tolomei, quella che finì con Cleopatra, c'era per esempio una tassa medica chiamata in greco iatricon. Possiamo ancora leggere i registri dell'ufficio delle imposte dei re d'Egitto e risulta per esempio che lo iatricon si poteva pagare in un'unica soluzione annuale oppure in rate mensili. Pare che il ticket dell'Egitto greco fosse salatissimo, attestata per una rata mensile la cifra di 80 dracme, che era più o meno lo stipendio di un bracciante agricolo per un intero mese. tasse. Forse a pagarle era un ricco e forse ai ricchi si chiedeva di pagare di più. Perché la tassa serviva allora come oggi a garantire un servizio sanitario pubblico. E anche allora, in alcuni casi, erano previste esenzioni. Per esempio, un'iscrizione della piccola isola di Teos, nell'Egeo, attesta che nell'anno 310 a.C. il governo locale decretò l'esenzione quadriennale dallo iatricon, dalla tassa medica, per tutti gli stranieri che avevano appena preso residenza nell'isola. E siamo certi che anche allora ci sarà chi avrà protestato perché si curavano gratis gli immigrati. Allora, intanto ringrazio l'assessore Luca Zeni per essere stato con noi, ringrazio il direttore dell'Adige Pierangelo Giovannetti, ringrazio il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Walter Ricciardi e tutti ricordo che questa, come tutte le altre puntate di Storiacce, può essere riascoltata dal sito radio24.it e che chi ci sta ascoltando anche dall'esterno qui di Piazza Pasi, dico che ci possono scrivere sulla pagina Facebook di Storiacce oppure su Twitter, mi trovate all'account Raf Calandra. Grazie a tutti. Grazie a voi.